sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 aprile, il sole in regione sorto alle 6:16 e tramonterà alle 19:58. La luna crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. In collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, uno storico mulino friulano, colmando un vuoto, ha creato una farina speciale adatta per i bambini sopra i 3 anni, che si caratterizza per la sua salubrità e il fatto di essere prodotta con grano a chilometro zero. A seguire la rubrica del bio, che racconta di uno studio sui lamponi che ha evidenziato come gli insetti impollinatori siano strategici più di ogni raffinata concimazione di sintesi. A seguire il ruolo e importanza di alcuni composti minori nell'uva e i suggerimenti per i lavori da fare in orto nel mese di aprile. Ci sarà poi la prima puntata dedicata ai cavoli in regione, che hanno una loro storia, e la mirabolante torta glacé. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Uno storico mulino friulano, coltivatori a chilometro zero e anche Istituto Superiore di Sanità. Sono gli attori di una nuova farina, una farina pensata per la seconda infanzia, una farina di cui si sentiva l'esigenza e soprattutto viene a colmare un vuoto. E parliamo con Stefania Marzona, che è la tecnologa alimentare e consulente di questi mulini. Come nasce questa farina? Nasce all'interno di un mulino di donna, direzione femminile, donne, madri, mogli. E nasce dall'idea di colmare una lacuna normativa importante e di destinare questo sfarinato, quindi farina di grano tenero, per una fascia d'età che comprende i bambini tra i 3 e i 10 anni. Quali sono le caratteristiche peculiari di questo prodotto? Questa farina l'abbiamo già definita un po' innovativa di fatto, ed è innovativa per numerosi aspetti. Innovativa per il target, un target che fino adesso non era stato considerato ed è un target che appunto è stato studiato grazie alla collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Innovativa perché di fatto è caratterizzata da un contenuto bassissimo di quelli che sono i contaminanti classici della farina. Parliamo di una farina che è certificata, ha 4 certificazioni, una certificazione di rintracciabilità di filiera, e quindi sì, parliamo di chilometro zero con un partner a 10 chilometri da noi, un agricoltore a 10 chilometri da noi, ma parliamo anche di una farina che è certificata per presenza di residui fitosanitari zero, glifosato zero e un contenuto di micotossine ridotto certificato dell'80% rispetto all'attuale normativa in vigore. Qual è il ruolo dell'Istituto Superiore di Sanità in questo progetto? Abbiamo fatto proprio un progetto di ricerca durato dal 2016 al 2019, un progetto che ci ha permesso innanzitutto di studiare, individuare i contaminanti su cui dovevamo andare a lavorare, proprio per il target seconda e terza infanzia. E in particolare tra questi ovviamente le micotossine, quindi parliamo di contaminanti di natura chimica, in particolare micotossine e specificatamente il DON, il deossinivalenolo, che è la micotossina tipica del nostro frumento tenero. Prima ci diceva una farina per mamme, perché? Io sono mamma e quindi il prodotto tocca il cuore delle mamme, perché ci dà la sicurezza, ecco, veramente la garanzia di utilizzare una materia prima nelle varie preparazioni, biscotti, torte, insomma quello che siamo abituati a cucinare, caratterizzata veramente da un profilo bassissimo di contaminanti. Attenzione anche per il territorio, perché vi rivolgete a degli agricoltori chilometro zero che vi forniscono la materia prima. Questa farina nasce all'interno di una certificazione di rintracciabilità garantita e volutamente di rintracciabilità di filiera. Qual è la differenza? La differenza sta nell'avere un patto di filiera con l'agricoltore e che è in grado di attenersi a quello che è l'obiettivo, no, del prodotto, quindi fornirci un frumento che ha esattamente le caratteristiche che noi desideriamo. Devo aggiungere anche che l'importanza di avere questo partner è legata non solo alla possibilità di adempiere alle nostre richieste da un punto di vista di contaminanti, ma anche di un frumento, insomma, che è ottimale da un punto di vista tecnologico. Come sta rispondendo il mercato? C'è interesse? Assolutamente sì, l'interesse è tanto, la curiosità anche. È un prodotto che immagino che sia il primo lanciato sul mercato di questo tipo, soprattutto perché pensato per questo target, per i bambini, e da qui allacciamo anche il nome, no? Amor Bimbi, nato proprio con l'idea di richiamare subito nella mente delle mamme che è una farina pensata proprio per i bambini. L'interesse c'è e c'è l'interesse ovviamente nel richiedere, nell'acquistarlo, ma anche nel comprendere come utilizzare al meglio questa farina. Vale di più un bello sciame di insetti pronubi, api e compagnia di qualsiasi concimazione di sintesi. Cristina Micheloni ci parla oggi di una sperimentazione sui lamponi e i risultati sono sorprendenti. Con molta soddisfazione riporto i risultati di una recentissima ricerca che dimostra, per l'ennesima volta, ciò che andiamo dicendo da qualche decennio. E prima di noi una bella serie di competenti quanto inascoltati scienziati, agronomi e agricoltori. Ecco i fatti. Sui lamponi, presi come test, ma il discorso vale per tutte le piante che debbono essere in pollinati dagli insetti come i pomodori o i fagioli. Vale di più in termini di quantità di frutti prodotta la presenza di un buon numero di insetti impollinatori che l'utilizzo di qualunque quantità di fertilizzanti di sintesi. E sottolineo di sintesi, ovvero urea, nitrato ammonico o perfosfati. Perché invece la sostanza organica apportata sotto forma di compost, di letame o altro interagisce con gli impollinatori e incrementa ulteriormente la resa e, inoltre, migliora la qualità sensoriale dei frutti. La maggior presenza di sostanza organica nel terreno attrae sulle piante un maggior numero di insetti impollinatori, cosa che non succede con i fertilizzanti di sintesi. Evidenza confermata da uno studio anche sui fagioli. Ciò grazie al fatto che i fertilizzanti organici, che liberano diversi micro e mesonutrienti, parlo di manganese, di ferro, di molibdeno, e non solo azoto, fosforo e potassio, migliorano le caratteristiche dei fiori in termini di percentuale di zucchero nel nettare e durata della fioritura. In numeri, senza sostanza organica i fiori hanno ricevuto 132 visite, con la sostanza organica 185 su 10 ore giornaliere di attività e per 2,5 giorni di durata del fiore. Pensate a che enorme lavoro fanno gli insetti. La presenza degli impollinatori ha incrementato le produzioni sia perché ha portato a frutti più grossi, quindi più drupeole, che ha un maggior numero di frutti per pianta. Parallelamente, la presenza di sostanza organica ha migliorato la percentuale di zucchero nei frutti, rendendoli quindi anche più buoni. Quindi, se invece di usare concimi di sintesi si usa compost, letame o altri fertilizzanti organici, già si migliorano le cose e si attraggono più pronubi. Se poi si fa qualcosa per aumentare le popolazioni degli insetti impollinatori, si vince la lotteria. Solo che mentre la decisione di che cosa utilizzare per la fertilizzazione è individuale, lo potete fare nella vostra azienda, quella sul mantenimento e l'incremento dei pronubi necessita di un'azione collettiva e territoriale. Intanto cominciamo ognuno per sé a incrementare la presenza di fasce fiorite, siepi e alberature nel nostro. Però poi è necessario che livello ampio la si smetta di utilizzare erbicidi, insetticidi e fungicidi che pesantemente ne riducono la presenza. E bisogna poi complicare in modo intelligente il paesaggio. Ne godremmo anche dal punto di vista estetico. Roberto Zironi per la rubrica del vino ci parla di quei composti minori, ma comunque importanti, che lavorano nell'uva. Per completare l'analisi dei componenti dell'uva, restano quelle che possiamo definire componenti minori. Partiamo dai polisaccaridi, che hanno una notevole influenza nel corso della maturazione sui processi di rammollimento del frutto. Un rammollimento vuol dire una facilità di estrazione dei succhi durante la fase di ammostamento e quindi un aumento della complessità compositiva degli stessi. Da un punto di vista qualitativo, i polisaccaridi danno questo effetto di complessità al sorso e quindi il vino appare più ricco, oltretutto più ricco in sostanze aromatiche che vengono stabilizzate dalla presenza dei polisaccaridi, così come le sostanze coloranti. Inoltre aumenta la morbidezza del vino con una diminuzione della stringenza e dell'amaro. Infine hanno un effetto stabilizzante sulla schiuma degli spumanti. Altra componente interessante sono le vitamine, che tendono ad incrementarsi con l'approssimarsi della raccolta. Le vitamine hanno una variabilità che può dipendere dalla presenza di funghi durante la maturazione sul frutto. Quindi i succhi che noi andremo a estrarre saranno i succhi dell'uva, ma anche in parte i succhi del fungo. La presenza del fungo porta tendenzialmente ad una loro diminuzione. Perché sono importanti? Perché sono dei modulatori dei processi fermentativi, quindi dalla presenza in vitamine dipenderà la buona qualità della fermentazione e quindi conseguentemente la buona qualità del vino. Inoltre possono inibire la produzione di composti che vanno a complessare e quindi ridurne l'efficacia dell'antisettico di maggiore importanza di uso analogico, l'anidride solforosa. Alla fine del secolo scorso, l'attenzione della cronaca si è soffermata su una particolare classe di composti dell'uva, gli stilbeni, a cui appartiene il resveratrolo. Questa è una sostanza che si produce nell'uva come reazione agli attacchi fungini, ad esempio della già ricordata muffa grigia, che pareva potesse avere anche un effetto importante da un punto di vista farmacologico, a giustificare quello che veniva chiamato il paradosso francese, secondo cui nella dieta dei francesi, che dove è presente il vino, si poteva avere un effetto cardioprotettore diverso, diciamo, da quello che si otteneva in altre diete simili di altre popolazioni del nord Europa. Oggi questi aspetti sono stati assolutamente definiti come non veritieri, anche perché per avere un effetto significativo noi dovremo assumere più di 4 litri di vino al giorno. Rimane però importante l'aspetto di controllo dell'attività biologica del fungo nei confronti della vite, anche perché ci dobbiamo ricordare che se vogliamo avere un vino di qualità dobbiamo partire da uve sane e non con presenza di parassiti. Tanti i lavori da fare in orto in questo mese, i consigli e piccoli accorgimenti di Sara Bosco. Oggi parliamo dei lavori che si possono eseguire in questo mese di aprile. Ci sono diverse attività da poter effettuare per predisporre un orto ben gestito e un raccolto soddisfacente. Le semine tra pianti sono diversi, sia in pieno campo che in un tunnel freddo, come ad esempio lattughe, radicchi, cicoria, bieta, bietole, verzotti, zucchini, cetrioli, ma anche alcuni legumi come fave, fagioli e fagiolini. Alcune colture, affinché permettano un buon raccolto, è preferibile metterla a dimora in un tunnel freddo, oppure in pieno campo però con la predisposizione di archetti e un telo di copertura, in particolare nei primi mesi. Tra questi ortaggi troviamo ad esempio le melanzane, i peperoni e i pomodori, che rispetto ad altre colture amano maggiormente delle temperature più calde rispetto a quelle dei nostri ambienti in questo periodo. Un importante gruppo di piante, ottime da seminare e trapiantare nei nostri orti, ma anche sui balconi in vaso, sono quelle aromatiche, tra cui troviamo basilico, prezzemolo, origano, rosmarino e anche quelle officinali come camomilla e calendula. Un accorgimento importante nel caso si effettui la semina in vaso di ortaggi all'interno di una stessa specie, quindi come ad esempio nei pomodori, è preferibile seminare colture a seme piccolo per una miglior gestione. Per quanto riguarda invece le raccolte di questo mese, possiamo trovare ancora alcuni ortaggi invernali, come cavolfiori e finocchi. Si possono raccogliere i primi asparagi e i carciofi. E possiamo avere anche i primi raccolti delle verdure da taglio, come rucola, insalatina, radicchietto. In semenzaio si possono seminare tutte le colture estive, e ciò ci permette un maggior attecchimento, in quanto la piantina è più forte e sviluppata quando viene messa a dimora in pieno campo. Infatti alcune colture come i legumi non hanno problemi particolari nella semina diretta in campo, mentre altri come le cucurbitacee o le solanacee è preferibile seminarle prima in ambiente protetto e poi trapiantarle, per salvaguardarle nelle fasi più sensibili degli eventi atmosferici e da eventuali antagonisti. In Friuli un posto di primo piano tra i prodotti dell'orto, ma non solo, lo ha il cavolo, con tanto di storia, come ci racconta Adriano Del Fabbro. Il dottor Geremia Simeone di Cassacco, che esercitò l'arte medica nella seconda metà del 400, assegna ai cavoli freschi le virtù di migliorare la vista, far aumentare il latte delle puerpere e soccorrere la voce roca. Il poeta venzonese Niccolò Monrupino, vissuto tra il 1528 e il 1570, fra i suoi versi di lode al primo agosto associa le verze cotte con prosciutti e cervella. In una locanda di Forn di Sopra nel novembre del 1706 a un drappello militare di passaggio vennero serviti, fra l'altro, broccoli in umido, broccoli alla griglia e capucci. Nel 1708, nella lista delle cibarie acquistate dal sacerdote di Palazzolo dello Stella, Antonio Gregorato, entra anche il kraut. La ricerca statistica promossa dal governo francese nel 1807 registra che a Cercivento e Paularo, tra l'altro, si coltivavano cavoli, cappucci e altri erbaggi. Secondo un documento datato 1820, a Sauris il kraut, il cavolo cappuccio fermentato, era parte consolidata dei pranzi tipo degli abitanti del posto. Nella descrizione delle orticole coltivate nel Monfalconese, stesa dall'abate Leonardo Brumati nel 1844, l'uso del cavolo cappuccio viene indicato come componente della preparazione dei krauti. La società agraria friulana, all'interno dei cenni sulle condizioni meteorologiche, economiche e sanitarie della Carnia relativamente all'anno 1863, scrive: «I cavoli, le verze, gli asparagi e gli altri erbaggi ebbero quest'anno poco vigore. Ciò dicasi specialmente dei cavoli bianchi, che sono per la carne un interessante prodotto, perché pestuggiati se ne fa il cosiddetto crauto, ottimo cibo per tutto l'anno». La contessa Giuseppina Perusini Antonini, a metà degli anni 60, mise insieme la raccolta dei testi che poi avrebbe pubblicato poco tempo dopo. Ecco cosa scrisse al capitolo dedicato alle verze e ai broccoli. Le verze erano, con le rape, uno degli ortaggi più diffusi presso il popolo, come si è già notato. Diverse sono le varietà, venivano cucinate in tegame oppure lessate e anche mangiate crude, condite con olio e aceto. Le foglie delle verze tagliuzzate e messe a inacidire in bariletti di legno con aceto e sale davano i crauti di importazione forse austriaca, meno diffusi della brovade, tuttavia noti fin dal secolo XVI. Anche i broccoli venivano lessati e conditi in insalata. Oggi Roberto Zottar torna al primo amore, i dolci, con una dotta dissertazione sulla torta glacé, ricetta compresa. Oggi vi racconto di una splendida torta dell'antica pasticceria Paulin di Gorizia, purtroppo chiusa molti anni fa. Tra i suoi dolci era molto rinomata la torta glacé, realizzata con un fondo di pasta frolla, una bavarese alla crema e ricoperta da pasta sfoglia. Il termine bavarese è curiosamente caratterizzato da un'alternanza di genere. Il bavarois, cioè il bavarese, è un dessert francese maschile perché il termine sottinteso è budino o formaggio, dolce conosciuto poi in Italia anche come la crema bavarese. Oggi ci siamo dimenticati del termine crema e da maschile il dolce lo chiamiamo al femminile, la bavarese. La bavarese in origine, però, era una bevanda tedesca composta da tè, latte e liquore, inventata agli inizi del Settecento dai cuochi francesi dei principi Wittelsbach, casa regnante di Baviera. Nell'Ottocento in Francia nacque il bavarois, ispirata appunto alla bevanda. La versione originale del dolce prevedeva una crema inglese addensata con gelatina, panna montata e vaniglia, con l'eventuale aggiunta di uno strato di pan di Spagna inzuppato con uno sciroppo alcolico. Alla crema si potevano aggiungere cioccolato, caffè o frutta fresca o candita o confettura. La ricetta è codificata nell'Ottocento dal famoso chef francese Marie-Antoine Carême sotto il nome di fromage bavarois, formaggio bavarese, per suo aspetto simile ad un formaggio fresco. La ricetta della torta glacé di Paulin è ancora gelosamente custodita dagli eredi, ma ho ritrovato una sua versione nel ricettario manoscritto di Margherita Culotte, classe 1903, che lavorò nella pasticceria dal 1919. È in pratica una bavarese di crema inglese con gelatina e panna montata. Per due torte da 26 cm sbattete 6 tuorli con 3 etti di zucchero, aromatizzate con 2 cucchiai di marsala secco, stemperate con 1 litro di latte caldo e fate addensare la crema sul fuoco senza superare 83 gradi. Aggiungete alla crema 5 fogli di colla di pesce reidratate in acqua. Quando il composto raggiunge i 30 gradi, aggiungete delicatamente 0,5 litro di panna montata e versate in una tortiera su cui fondo avrete messo un disco di pasta frolla cotta. Fate consolidare in frigorifero per almeno 6 ore. Nella pasticceria Paulin la torta era rifinita sopra con un disco di pasta sfoglia e zucchero a velo. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,90 e 22,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,60 e 21,90, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 18,50 e 19 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 5,10 euro e il frumento di 1,80 euro al quintale. Passando ai bovini da macello, si rileva stabilità nelle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,30 e 2,60 euro il chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,60 e 2,30. Pure il mercato dei vitelli da ristallo conferma le quotazioni delle ultime settimane e l'andamento accerta che i blubelga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,30 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,50 e 5 euro, i frisoni tra 1,30 e 1,60 e i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa per i lattonzoli di 30 kg che vengono quotati franco partenza a 3,63 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati in calo 1,32 il chilo. Movimento in ribasso nel settore dei foraggi, dove il fieno mazzengo di pianura viene quotato tra 14 e 14,50 euro il quintale IVA esclusa, l'erba medica di prima qualità tra 17,50 e 18,50, quella pellettata a 23 euro il quintale, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12, 12 e 30. Con il previsore dell'ARPA Sergio Nordio diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Dopo un lungo periodo senza pioggia, fra l'11 e il 13 aprile, una saccatura atlantica ha provocato un peggioramento con piogge intense, specie il giorno 12, ed è ritornata anche la neve fino a 600 metri di quota, con venti freddi sostenuti prima da nord, poi arrivata la bora, forte a Trieste, con raffiche fino a 100 km orari. Nel dettaglio, i cumulati di pioggia hanno raggiunto anche i 160 mm sulla pianura centro-orientale, i 200 mm sulle prealpi Giulie, i 60 mm sul Carso e sulle Alpi e prealpi Carniche occidentali. Il valore più elevato è stato raggiunto a Clauzetto, con 214 mm. Sui monti in quota, 1700 metri, sono caduti fino a 40-50 cm di neve fresca. In poco più di 48 ore è caduta la stessa quantità di pioggia che di solito si registra in tutto il mese di aprile. Ora, la stessa depressione, seppur attenuata, rimarrà ancora presente fino a domani e favorirà moderata instabilità, con cielo variabile e possibili deboli precipitazioni sparse al pomeriggio. Martedì e mercoledì avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma nei pomeriggi sarà sempre possibile qualche locale rovescio o temporale. Le temperature saranno in lieve aumento, con minime fra 4 e 6 gradi in pianura, tra i 7 e i 9 sulla costa, le massime saranno comprese fra 15 e 18 gradi. Nella seconda parte della settimana, il probabile permanere di masse d'aria piuttosto fresca in quota, congiuntamente ad un debole afflusso di umidità nei bassi strati, provocheranno il persistere di lieve instabilità, con mattinate soleggiate e pomeriggi punteggiati da rovesci sparsi e forse anche da temporali. Tali condizioni non devono meravigliarci, in quanto il mese di aprile, specie se andiamo ad esplorare la climatologia della regione fino a 20 anni fa, era normalmente caratterizzato da moderata instabilità, frequenti piogge sparse e da temperature non troppo elevate, mentre negli ultimi anni ci eravamo già abituati a dei precoci anticipi del caldo. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Sal più fal di San Zorzi, il cavaliere al vate court, ovvero se piove il giorno di San Giorgio, il 23 aprile, il bacco da seta è da buttare te court nell'etamaio. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.